In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Sentir parlare della teoria del multiverso è una visione del mondo affascinante. Secondo questa teoria esisterebbero diverse realtà, tutte leggermente differenti una dall'altra. Immaginiamo che le cose stiano davvero così per un attimo e chiediamoci se esistono tante realtà, ce n'è una che è più reale delle altre, che è più vera. In altre parole, che cos'è reale davvero? Ecco, tenete bene a mente questa domanda, perché nel racconto di oggi sarà molto difficile tracciare una linea di confine tra immaginazione e mondo reale. Oggi vi racconto l'assurda, la strana storia di un vero e proprio scrittore di culto della fantascienza, che però come persona è stato un enigma vivente. Una volta disse: sono il protagonista di uno dei libri di Philip Dick. E il fatto che noi oggi parliamo proprio di Philip Dick. Sono certo che non mi credete davvero, e forse non credete davvero che ci creda io stesso. Capirete che anche per me una simile affermazione è di per sé sconcertante. Molti sostengono di ricordare una vita passata, ma io sostengo di ricordarne un'altra, diversissima, vita presente. Che io sappia, nessuno ha mai affermato una cosa del genere, ma ho il sospetto di non essere l'unico ad aver fatto questa esperienza. Ciò che è unico è la mia disponibilità a parlarne. Queste parole, pronunciate da Dick in un discorso pubblico del 77, ci fanno capire quanto sarà difficile in questa puntata rimanere con i piedi per terra. Oggi vi racconteremo la storia di un uomo, ma non faremo solo quello, faremo un viaggio nella profondità della sua mente, molto complessa, molto contorta. Lo scrittore Anthony Bauscher una volta disse che la fantascienza consiste nel porsi la domanda: e se le cose fossero diverse da come ci appaiono? Questa è la vera fantascienza, non sono i razzi e i missili. È una domanda che tutti ci siamo fatti, e se l'è fatta sicuramente anche Philip Dick, anzi bisognerebbe dire Philip K. Dick. La sua è stata un'esistenza voltata a indagare la realtà, però in un modo diverso rispetto a quello al quale siamo abituati, perché in lui ci sono esperienze trascendentali, ci sono deliri paranoici, ci sono crisi mistiche e c'è molto altro. E tutto questo poi si condensa in un vastissimo ambito di romanzi, di racconti così assurdi, racconti all'avanguardia. Lui ha ispirato più o meno direttamente almeno una quarantina di film. La nostra storia inizia negli anni 20, gli anni del proibizionismo negli Stati Uniti, il 18° emendamento col quale l'America vietava la fabbricazione, la vendita, l'importazione, il trasporto di alcolici di qualsiasi tipo. Il governo lo chiamava il nobile esperimento. Aveva origine dalle pressioni di varie associazioni, le società di temperanza si chiamavano, erano gruppi religiosi, politici, molto moralisti. Insomma, c'era questo incubo, lo definirei, per il quale non si potevano bere alcolici. Ovviamente, peraltro, questo, come sappiamo, aveva incentivato, insomma, tutta la rete sotterranea di vendita. Bene, a uno di questi gruppi di temperanza appartiene anche Dorothy Kindred, che è la madre del nostro protagonista Philip Dick. Chicago, 16 dicembre 1928, è una giornata fredda, Dorothy ha 27 anni, inizia il travaglio, Ted, il marito, che è preoccupato perché il figlio sta nascendo con 6 settimane di anticipo, chiamano la dottoressa che ha seguito la gravidanza, lei fa nascere il bambino e poi, con stupore di tutti, le doglie non si interrompono dopo il parto. Insomma, c'è un altro bambino, anzi una bimba, e nessuno se n'era accorto. Gemelli prematuri, deboli, Dorothy, la madre, che non ha latte a sufficienza per entrambi, si accorge troppo tardi di una forma di intolleranza gravissima al latte artificiale. Insomma, la mamma che non riesce a provvedere al sostentamento dei neonati, i bambini che vengono portati in ospedale, quando ci arrivano la loro salute è già compromessa, Jane non ce la fa. Insomma, uno dei due, la bambina, muore e il senso di perdita apre nella madre una voragine che finirà per segnare molto profondamente anche il piccolo Philip. È una sindrome, lo sapete, si chiama sindrome del sopravvissuto. Tu ce la fai e ti senti colpevole per tutta la vita. Capita anche a quelli che hanno, non so, un incidente aereo in macchina. Ecco come Anthony Peak nel libro Philip K. Dick, l'uomo che ricordava il futuro, racconta un inquietante particolare del funerale della piccola Jane. Il minuscolo corpo di Jane venne portato in Colorado per la cremazione e le sue ceneri furono sepolte nella tomba di famiglia presso il cimitero di Fort Morgan. Quasi che il clima volesse adeguarsi alla tristezza dell'occasione, l'intera cerimonia si svolse in mezzo a un'accecante tempesta di neve. Per essere preparati, accanto al nome della figlia, Dorothy e Ted avevano fatto incidere sulla lapide Philip Kindred Dick, forse temendo che, come Jane, il minuscolo neonato non sarebbe sopravvissuto all'inverno. Qualunque sia stato il motivo, Philip seppe fin dall'inizio in quale luogo le sue spoglie mortali avrebbero un giorno riposato. E con l'arrivo della Grande Depressione del 29, la famiglia si trasferisce a Berkeley, in California. Ted è un funzionario federale, quindi diciamo relativamente al riparo dalla crisi economica, ma non da quella coniugale, perché Dorothy è cresciuta in una piccola comunità religiosa del Colorado, ma ha questo carattere, probabilmente derivante dalla sua formazione religiosa, questo carattere autoritario, possessivo, opinioni sempre molto nette, il bene e il male da una parte e dall'altra, con l'umanità che si divide in due gruppi, quelli che si dedicano a un'attività creativa e quelli che non lo fanno. Lei ritiene che sia impossibile che esistano persone realizzate nella seconda categoria e insomma disprezza il marito, che è un uomo semplice, che è interessato più al football che non alla letteratura. Insomma, alla fine del 33 Dorothy chiede il divorzio. Non è che sia una separazione particolarmente dolorosa, i due si allontanano da amici, diciamo, cercano di non rendere la cosa difficile a Philip, che però comunque non prende bene la cosa, soprattutto quando è costretto a trasferirsi a Washington con la madre. Loro rimarranno lì 3 anni, però per Philip è un periodo triste, solitario. Poi, per sua fortuna, nel 38 si torna a casa, si torna a vivere a Berkeley. Dorothy è una pacifista, amante della cultura, delle idee d'avanguardia. A Berkeley si sente rinascere perché può fare l'impiegata statale, ma può fare anche la femminista senza che nessuno abbia da ridire. E nel tempo che passa con lei, Philip comincia a avvicinarsi alla letteratura, si appassiona, non so, ai racconti magici tipo Il mondo di Oz di Frank Baum, e comincia anche a scrivere. Quindi immaginiamoci Philip a 12 anni, un ragazzo un po' sovrappeso, che passa il tempo a ascoltare musica, a leggere racconti di fantascienza, a battere a macchina, ascolta i dischi di musica classica che gli regala la madre, colleziona riviste illustrate di divulgazione scientifica, legge Edgar Allan Poe e Lovecraft, pieno di interessi, è però solitario, personalità volubile, cambia idea in poco tempo, è pieno di fobie, di problemi d'ansia, soffre di tachicardia, di crisi d'asma. Insomma, è un ragazzino molto, molto particolare. Dorothy capisce che è necessario l'intervento di un esperto quando a 14 anni si fa visitare per la prima volta da alcuni psichiatri. I dottori parleranno di una lieve forma di isteria, il parere peraltro non è unanime, perché la verità è che lui è molto intelligente, riesce a prevedere, a condizionare i test dei medici, è così intelligente che capisce, si rende conto della natura irrazionale delle sue fobie. Lui capisce che tutto questo è solo una sua visione distorta della realtà, e questo fa nascere in lui quest'idea: la realtà non è che un'illusione, niente può essere dato per scontato. È un tema che sarà centrale nelle sue opere. Philip iniziò a lavorare part-time nel centro di Berkeley all'University Radio and Electronics, in pratica un servizio di vendita e riparazioni che commerciava in frigoriferi, grammofoni e altri elettrodomestici. Il padrone del negozio, Herb Hollis, era proprietario anche del negozio di dischi Art Music Company. Con il tempo divenne evidente che la conoscenza quasi enciclopedica di musica classica di Philip avrebbe potuto essere messa a frutto all'Art Music, e così il ragazzo vi divenne un commesso. Dopo aver finito la scuola, Philip iniziò a lavorare a tempo pieno per Hollis e nel corso degli anni divenne molto legato al suo mentore. Finita la scuola, Philip lascia la casa della madre, va a vivere in un appartamento di studenti bohemien e lì smette di leggere libri di fantascienza, mette da parte insomma le riviste più dozzinali e si immerge in altri tipi di letture: Joyce, Kafka, Pound, Wittgenstein, Camus. Comincia a lavorare in un negozio di dischi dove conosce Cleo Apostolides, che è una ragazza di origine greca, 19 anni. Si innamorano, si sposano subito nel 50, lui ha 22 anni, comprano una casa nella parte popolare di Berkeley, una di quelle case scalcinate, quelle nelle quali quando piove d'inverno si perde acqua dal tetto, devono piazzare bacinelle dappertutto per evitare l'allagamento. Lui prova a iscriversi all'università, le sue paure però lo bloccano subito. E all'Art Music però conosce un certo Anthony Boucher, che è uno scrittore, un recensore di romanzi gialli, di fantascienza. Lui è timido, spaventato per partecipare a un corso di scrittura creativa di Boucher, però al suo posto ci va lei, ci va Cleo, porta dei testi del marito, porta un racconto di fantascienza che viene molto apprezzato. Boucher pubblicherà quel racconto, è lì che Philip si convince di potersi guadagnare da vivere con la scrittura, lascia il posto al negozio di dischi, comincia a fare lo scrittore a tempo pieno, si trova un agente che lo aiuta a vendere decine di racconti. Nel 1955 arriva il primo romanzo e Philip comincia a affermarsi come scrittore di fantascienza professionista. Siamo negli anni 50, lui ha solo 24 anni, lui giudica questa situazione più che altro un approdo temporaneo, non può immaginare che questa sarà veramente la scelta della sua vita. Insomma, lui comincia coltivando una passione adolescenziale che diventa lavoro. Peraltro la fantascienza in quel momento era un mercato in piena espansione e ovviamente però ci sono un po' di compromessi da accettare, i tagli voluti dagli editori, titoli magari assurdi che gli vengono proposti per attirare l'attenzione, le illustrazioni un po' stereotipate con gli omini verdi, con gli occhi da insetto, insomma cose molto lontane dalla sua idea di fantascienza. Negli anni 50 scrive un'ottantina di racconti ma anche 8 romanzi, però questi romanzi vengono tutti rifiutati. Cleo intanto però lo incoraggia, è affascinata da questo mito dell'artista incompreso, le piace la vita bohemienne. A Philip non piace tanto partecipare agli incontri tra scrittori perché ha il terrore che gli chiedano di che cosa scriva nei salotti buoni, insomma non si fa bella figura a parlare di fantascienza e viene considerato un genere per ragazzini. Lui insomma si trova a disagio tra i colleghi, ma in realtà lui è uno che si trova a disagio dappertutto, si considera indipendente, ma questo non gli basta per controbilanciare le mortificazioni che subisce perché è povero, le entrate sono quello che sono. Per esempio, ecco come lo scrittore Manuel Carrer descrive un episodio nel libro Io sono vivo, voi siete morti. Vicino a casa c'era un negozio di cibo per cani, The Lucky Dog Pet Store, dove a volte lui andava a comprare della carne di cavallo, che in America è ritenuta inadatta al consumo umano. Un giorno il commesso lo squadrò e con una domanda lo inchiodò alla sua condizione di perdente. «Non sarà per lei, voglio sperare!» Quando lo raccontò a Cleo, lei scoppiò a ridere e per consolarlo gli spiegò il significato del suo nome in greco. Filippos, colui che ama i cavalli. Ma l'amore per i cavalli doveva spingerlo a mangiare la loro carne o al contrario farlo inorridire di fronte a una simile prospettiva? In termini di religioni comparate, una tesi valeva l'altra. Restava il fatto che loro due mangiavano carne di cavallo e che nella California della metà degli anni 50 lo facevano solo i paria. E mentre la carriera di Philip è agli esordi, l'America entra nella guerra fredda e soprattutto nel maccartismo, insomma quella caccia alle streghe nei confronti di tutti quelli sospettati di essere comunisti. L'FBI vede comunisti dappertutto. McCarthy era proprio questo senatore ossessionato dal comunismo, tutti vengono messi in discussione, il nemico potrebbe essere il tuo vicino di casa. Berkeley peraltro viene chiamata la capitale rossa perché si ritiene che ci siano molti simpatizzanti e nell'inverno del 55 arrivano a casa di Philip due agenti dell'FBI per parlare delle abitudini della moglie, che era iscritto al Partito Socialista dei Lavoratori, quindi diciamo confinava con la parte pericolosa del paese, almeno ritenuta tale. I due agenti torneranno più volte a casa di Philip, peraltro lui instaurerà anche un rapporto di fiducia con loro in un manuale di filosofia, peraltro lui lui legge la distinzione tra l'idios cosmos, la visione del mondo che ognuno ha, ognuno di noi, e il koinos cosmos, cioè il mondo oggettivo, quello che è veramente. E Philip discuterà di questo nei suoi incontri con gli agenti, perché è incuriosito dalla loro angolazione, cioè da questa visione del mondo così ossessiva, così ossessionata. Insomma, in un certo senso diventa l'esaminatore dei suoi esaminatori, e peraltro riporta nei suoi racconti queste riflessioni, e racconti che parlano di realtà che cambia a seconda del soggetto che la vede, per dire che in pratica la realtà è solo un punto di vista. Insomma, ricapitolando, quella di Philip Dick fino adesso è tutto sommato una vita tranquilla. C'è uno scrittore colto, riflessivo, magari un po' frustrato dalla nicchia nella quale è stato relegato, lontano quindi dal vero successo. Abbiamo parlato delle sue fobie, delle sue ossessioni, però quello che non abbiamo ancora detto è che queste ossessioni col tempo stanno prendendo il sopravvento, stanno diventando delle vere e proprie paranoie, e la visita degli agenti dell'FBI conferma i suoi sospetti. È convinto di vivere, attenzione, in una specie di grande Truman Show, e non sto citando a caso questo film, perché il film Truman Show, così geniale, in realtà deve molto ai racconti di Philip Dick, alle sue paranoie. Gli psichiatri cominciano a preoccuparsi, gli viene diagnosticata una forma lieve di schizofrenia con tendenze depressive, e allora da bravi psichiatri americani tutto questo viene combattuto con un pesante approccio farmacologico, e Dick, da bravo americano, finirà per abusare degli antidepressivi, se li farà prescrivere per esempio da diversi medici in contemporanea per poter darci dentro. Però malgrado questo, lui diventerà un punto di riferimento per la letteratura di genere, cambierà per sempre il mondo della fantascienza, il volto della fantascienza è in serbo per noi e per se stesso e per il mondo diversi colpi d'ala. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. È veramente possibile distinguere la realtà dalla fantasia? Questa domanda è la domanda base per comprendere tante cose, ma nella fattispecie la storia di Philip K. Dick, uno dei più grandi scrittori di fantascienza di sempre. Stiamo parlando, abbiamo raccontato quest'uomo costantemente in bilico tra poli opposti, negli scritti e nella vita, il tema del doppio che è sempre presente nella sua storia, e lì c'è anche una partenza terribile, perché lui sopravvive alla sorella gemella Jane che muore nella culla, e quindi in qualche modo per lui il doppio è la chiave della sua tormentata esistenza. Insomma, c'è questo dilemma che lo tormenta, il doppio, e una volta che intraprende la carriera da scrittore diventa un autore di fantascienza, e tutto è incentrato su questo. Peraltro lui è anche considerato uno scrittore di serie B, e questo fa sì che il dilemma del doppio si ripercuota proprio sulle sue scelte di vita. Fare lo scrittore di fantascienza, insomma, come tutti i grandi artisti, vado alla ricerca del danaro o vado alla ricerca della mia ispirazione? E questo è un tema, insomma, che tutti in qualche modo vivono, tutti quelli che fanno qualcosa di artistico, ma a questo tema nel suo caso si aggiungono disturbi mentali, paranoie, fobie e questa terribile dipendenza da antidepressivi. Nell'estate del 1958 Philip e la moglie Cleo si trasferiscono a Point Reyes Station, che è una piccola cittadina, siamo a nord di San Francisco. Qui conoscono Anne Williams Rubenstein, o Rubenstein. È una donna dal carattere forte, bella, intelligente, madre di tre figli, è rimasta da poco vedova, e qui purtroppo, o per fortuna, dipende anche come sempre dai punti di vista, Philip si innamora, nasce una relazione clandestina, Cleo lo scopre, chiede il divorzio, e il 1 aprile 1959, per dimostrare che non scherzano, anche se il 1 aprile, Philip e Anne si sposano, e dal matrimonio nasce una bambina, Laura Harker Dick. Lui nel frattempo sta cercando di sfondare nella letteratura mainstream, ma non ha ancora successo. Scrive due romanzi che verranno rifiutati dalle case editrici, dopo un attimo di luce legata probabilmente al nuovo matrimonio, lui cade nuovamente in questo periodo nero e qui nasce, come spesso accade nei periodi neri, uno dei suoi più grandi capolavori, L'uomo nell'alto castello, pubblicato nel 62. Si tratta di un'ucronia. Cos'è un'ucronia? È un racconto basato su una premessa. La storia del mondo potrebbe anche aver seguito un corso alternativo. Volksgenossen, compatrioti, oggi vedete davanti a voi un uomo pieno di orgoglio. In questo giorno del 1947, 2 anni dopo la resa del governo degli Stati Uniti d'America, la sanguinosa guerra per liberare l'America fu vinta in modo definitivo e totale. E questo è un estratto della serie TV che recentemente Amazon Studios ha tratto dal romanzo di Dick. Insomma, Philip l'ha toccata piano perché ha immaginato un esito diverso della Seconda Guerra Mondiale. Vince la Germania che sgancia l'atomica su Washington e che poi assieme al Giappone si divide l'America. Quindi un mondo alternativo. E per complicare la vita e per complicarla anche a voi che mi state ascoltando, in questo mondo alternativo, cioè il Reich ha vinto, bene, lì c'è un libro che invece descrive una realtà diversa secondo la quale hanno vinto gli alleati e l'asse ha perso. Quindi vedete che incastro terribile, divertente, ma è veramente terribile anche star lì dietro. Insomma, lui gioca incastro tra le due realtà possibili. Il suo libro arriverà in Italia con il titolo La svastica sul sole, sarà un grande successo, è il primo vero grande successo di Dick, comincia a ricevere importanti attenzioni, vince il premio Hugo, che è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nell'ambito fantascientifico. Insomma, lui si comincia a rinunciare alle ambizioni di autore mainstream e accetta, anche se un po' a denti stretti, il suo destino, che è quello di fare l'autore di fantascienza. Tra il 62 e il 64 Dick prende in affitto una baracca isolata e lì si rinchiude per scrivere, la chiama il Tugurio, darà alla luce da questa baracca 11 romanzi, ritmo serrato, nei contenuti e nello stile questi romanzi stanno stravolgendo il genere fantascientifico e rappresentano la maturità artistica di Dick. E le sue idee, peraltro, il più delle volte nascono da paranoie, da vere e proprie visioni. Ecco come lui stesso, in un'intervista al Daily Telegraph nel 74, descrive una di queste visioni. Fui inondato dalla percezione di un'entità nel cielo. Ciò che vidi era una sorta di divinità maligna, non vivente, ma funzionante. Più che osservare, scansionava, come una macchina o un monitor. Come occhi aveva delle fessure e per tutto il tempo rimase sospesa in un determinato punto. L'ho utilizzata per un oscuro scrutare, la storia successiva a quella che stavo finendo all'epoca. Peraltro è probabile che Dick abbia avuto queste visioni dopo aver assunto allucinogeni, perché qui non ci facciamo mancare niente, insomma ha iniziato anche questo tipo di abitudine già dagli anni 50 ed è diventata un'abitudine sempre più frequente e molti suoi fan sono convinti di questa tesi. Lui a volte la conferma, poi ritratta, minimizza l'impatto che le droghe avrebbero avuto sul suo lavoro e insomma quello che è certo che lui non trova la soddisfazione che cerca, ma è anche vero, insomma, che è evidente che le droghe lisergiche, insomma, ampliano la percezione, tutti quelli che le hanno prese lo dicono. Dopo la vincita del premio Hugo, lui sta sperando in un riscatto economico che in realtà non avverrà e questa frustrazione alimenta ulteriormente le sue paranoie. Si convince di essere spiato dalla moglie, comincia a pensare di aver sposato una donna che aveva ucciso il suo precedente marito e che si è intenzionata a fare la stessa cosa con lui. Questo è proprio il giallo classico, ma diventa sempre più lunatico e passa da tentativi di suicidio a minacce di morte nei confronti della moglie. Il matrimonio ovviamente non dura, i due divorziano nel marzo del 64. Divorziare significava separarsi non solo da Ann e dalle figliastre, ma anche da sua figlia Laura. In ogni caso, lo stato a cui era giunto il rapporto con la moglie non fu l'unico fattore scatenante del divorzio. Philip sentiva il bisogno di abbandonare la calma vita borghese di campagna che aveva condotto a Point Rey Station, per tornare di nuovo single e potersi godere la frenesia e l'eccitazione della grande città. Philip torna a Berkeley, però la sua idea di vita da single si scontra, insomma, col suo modo di vivere, praticamente il suo rapporto con l'altro sesso ha risvolti molto compulsivi, ha molte donne, però a quasi tutte chiede di sposarlo, vuole costruire una vita familiare e poi manda tutto all'aria. Pochi mesi dopo aver lasciato Anne va a vivere con una certa Grenia Davison e con il figlio di lei, poi avrà un'altra ragazza, una giovane, Nancy Hackett, che gli darà un'altra figlia, però la sua situazione economica e mentale sta peggiorando, non ha soldi per mantenere nessuna di queste famiglie, men che meno l'ultima, è costretto a scrivere un romanzo dopo l'altro a ritmi incessanti e per farlo assume anche anfetamine, bingo, insomma, in questo vortice di eventi lui in realtà è capace di straordinari colpi d'ala, ma è totalmente devastato. Per esempio c'è un romanzo, Ubik, o anche un altro, Ma gli androidi sognano pecore elettriche, sono romanzi particolari, ma insomma chiaramente condizionati da tutto quello che gli sta succedendo. Forse l'ultimo, Gli androidi sognano pecore elettriche, lo ricordate meglio nella versione cinematografica che verrà realizzata molti anni dopo, perché uscirà da questo romanzo un film che si chiamerà Blade Runner. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. La tormentata vita di Philip Dick ormai è un punto cruciale. Siamo nella prima metà degli anni 70, lui ha poco più di 40 anni, è depresso e senza soldi, esce dall'ennesimo matrimonio fallito, però la cosa che più lo tormenta è quella dei suoi problemi mentali, perché ormai la sua paranoia è fuori controllo. Philip si convince di essere vittima di una cospirazione, di essere stato in qualche modo programmato dal KGB per condizionare la gente con i suoi libri, cioè sente una voce che gli anticiperebbe quello che deve ancora accadere e comincia a interpretare molti fatti come fenomeni paranormali. Poi è convinto di comunicare con la sorella morta, nel frattempo intanto insomma, capisce che le medicine e la chimica che è nel suo corpo peggiora la situazione. Allora cerca di curare la sua dipendenza da anfetamine, però i metodi delle cliniche da allora erano brutali e inefficaci. E in tutto questo lui rimane uno scrittore di culto, viene invitato come ospite d'onore a delle kermesse importantissime come la Vancouver Science Fiction Convention del 72, viene intervistato per un documentario della BBC, è famoso, è ascoltato, tiene delle lezioni alla University of British Columbia e insomma in lui... In qualche modo convivono la figura del grande scrittore e la figura del fallito. È interessante notare come il tema delle droghe ricorra nei suoi racconti. C'è un romanzo che si chiama Un oscuro scrutare, dove lui immagina un futuro in cui il consumo di droghe è così generalizzato che i confini tra la realtà e la immaginazione non esistono più, sono difficili da determinare. Insomma, una storia onirica con la riflessione filosofica che la fa da padrona. I racconti di Dick sono surreali e spesso è surreale anche la sua vita. Un giorno nel marzo del 74 lui racconta di essersi alzato improvvisamente dal letto, di essere andato verso la porta di casa quasi sapendo che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno. Un attimo prima di raggiungere l'ingresso c'è una ragazza che bussa alla porta, Philip fissa il ciondolo che la ragazza porta al collo, si blocca, si copre gli occhi con la mano, dirà di essere stato accecato da un lampo di luce rosa, di avere avuto una reminiscenza, cioè un ricordo di un'altra vita. Lo scrittore iniziò a percepire la presenza di colui che imparò a conoscere come Tommaso. Tommaso era un essere umano vissuto e vivente sotto l'impero romano. Philip sentiva che si trattava di un cristiano martirizzato per la sua fede e lo considerò come un se stesso, esistito secoli prima nel tempo lineare, ma che contemporaneamente, secondo la sua nuova concezione del tempo, condivideva il suo stesso presente. Insomma, un'altra delle assurdità vissute da Dick, che diventa leggenda. E quando un racconto diventa leggenda non si capisce più cosa è vero e cosa no, e ce ne sarebbero altre da raccontare, quasi tutte storie legate alla percezione di mondi paralleli, di entità infinite. Per ognuno di questi racconti c'è una cosa da dire: lui è convinto di raccontare cose in qualche modo vere. E tra la seconda metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, peraltro, lui finalmente raggiunge una certa sicurezza economica, e poi arrivano dei lavori che prendono ispirazione dai suoi sogni, dalle sue allucinazioni, ma anche dalla sua teologia, perché lui ormai è convinto di essere ispirato da una forma di intelligenza divina. Nel 1981 pubblica Valis, che è un romanzo in cui appare lui stesso come personaggio, ma ovviamente è un personaggio doppio, cioè in pratica dialoga con se stesso. Una parte di sé è folle, quella a cui dà il suo nome, e poi c'è un'altra parte, e lui la chiama Horse Lover Fat, grasso amante di cavalli, in realtà, perché Horse Lover Philippos in greco vuol dire amante dei cavalli, quindi Horse Lover, qui siamo veramente al triplo salto mortale carpiato mentale. E questa parte cerca di confutare le posizioni dell'altro io. Insomma, tutto questo crea una situazione nella quale è difficile capire per lui, figuriamoci per noi, chi dei due abbia ragione. Nel 1982 esce nelle sale Blade Runner, il primo film ispirato ai romanzi di Dick. Sarà un successo planetario, lui non lo saprà mai, perché il 18 febbraio del 1982 muore stroncato da un infarto. Il corpo senza vita di Philip Dick viene ritrovato qualche giorno dopo la sua morte. Viene trovato nel suo appartamento nel quartiere messicano di Sola, in California. Era un tugurio mal ridotto nel quale lui viveva da solo. Tutto farebbe pensare a uno scrittore con la carriera, diciamo, agli sgoccioli. Bene, Philip Dick in 53 anni di vita è riuscito a fare quello che la maggior parte dei suoi colleghi non riuscirebbe a fare in molte vite: 120 racconti brevi, 44 romanzi, una lunga serie di riconoscimenti a livello mondiale, una comunità devota di fan che esiste ancora. Ironicamente si fanno chiamare Dick Heads, le teste di Dick. Philip Dick è stato tra i primi a mettere a frutto le potenzialità politiche, direi filosofiche, della fantascienza. Ha superato l'idea che la fantascienza fosse solo l'intrattenimento per ragazzini con i razzi, i missili, i marziani con le orecchie grosse. E i suoi racconti non sembrano più tanto fantasiosi. Oggi, nell'era di internet, con la copertura mediatica 24 ore su 24, insomma, sicuramente Philip Dick aveva anticipato tante delle sue, ma soprattutto delle nostre, ossessioni di oggi. Penso, come dice la Bibbia, che tutti noi andiamo verso un luogo comune, ma non è la tomba, è la vita al di là, è il mondo del futuro. Philip Dick. E allora torno alla domanda che ci siamo posti all'inizio: che cos'è davvero reale? E vorrei applicare questa domanda a lui. Chi era Philip Dick? Era uno schizofrenico, un tossicomane, un genio, un illuminato, un pazzo? Forse tutte queste cose. E ovviamente è troppo semplice, sarebbe sbagliato definire Dick semplicemente uno con problemi mentali dipendente dalle droghe. Ci dimentichiamo che al mondo ci sono milioni di persone con problemi mentali dipendenti dalle droghe, ma di autori geniali ce ne sono pochissimi. Di Philip Dick poi ce n'è stato uno solo. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it e visitate le nostre pagine, almeno per quanto riguarda questa realtà. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Proteggere il futuro delle persone che ami. Con noi puoi. CNP Vita Assicura dà valore ai tuoi progetti con soluzioni assicurative di risparmio e protezione. CNP Vita Assicura. Chiedi al tuo consulente o scopri di più su gruppocnp.it.